Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Per ovviare alla crisi delle vocazioni, nelle abbazie inglesi si organizzano stage per cominciare a familiarizzare con la vita monastica. Mancano pochi minuti alle 6 di sera. È buio e nevischia. Dietro le vetrate del lungo corridoio, illuminato da una luce fioca che dal monastero porta alla chiesa, i monaci sbucano d'un tratto in piccoli gruppi, agitando i cappucci e le tuniche nere, come uno stormo di corvi saltellante sul selciato. Ad accompagnare la goffa danza sono i cupi rintocchi della campana, che chiama alla funzione dei vespri. Uno sparuto gruppo di fedeli e un drappello ancora più sottile di ospiti del convento si raccoglie attorno all'abside dietro l'altare, dove potrà assistere agli antichi canti dei frati neri, che salmodiano in latino su passi dei profeti Elia e Giona. Siamo fuori dal tempo, più precisamente nell'abbazia di Ampleforth, in aperta campagna, a 50 chilometri a nord-est di York. È la maggiore abbazia d'Inghilterra, forte di 80 monaci dell'ordine di San Benedetto, che replica la vita dei padri fondatori nel lontano VI secolo, in osservanza ai dettami dell'eremita del Monte Subiaco. È nota ai più per l'annesso college, dalle elementari al liceo, soprannominato la Eton dei Cattolici, perché da più di due secoli educa rampolli delle famiglie britanniche rimasti fedeli alla Chiesa di Roma. Oltre ad annoverare abati illustri, come il famoso cardinale Hume. Chiusi da Enrico VIII a metà del XVI secolo, i conventi cattolici sono tornati a riaffacciarsi sul proscenio inglese del XIX secolo, dopo il ritorno delle prime avanguardie di monaci alla fine del XVIII secolo. L'effetto dei canti gregoriani sui visitatori occasionali è garantito e lascia un segno su chi passa il breve soggiorno. Raramente agli esterni viene concessa più di una settimana, e ciò in virtù della potente combinazione di melodie celestiali intervallate da lunghi periodi di assoluto silenzio. Gli ospiti che frequentano il monastero provengono dalle estrazioni più varie, dai religiosi ai professionisti in cerca di pace e serenità, lontani dalle preoccupazioni della crisi economica. Recentemente il settimanale The Observer rilevava come i monasteri inglesi, sempre più a corto di vocazioni e in preda a un inesorabile declino di monaci falcidiati dall'anagrafe, si stiano reinventando per attrarre i curiosi ed eventualmente colpire nel segno strappando una nuova vocazione. Il tempo d'altronde stringe. Il totale di monaci e le suore di tutti gli ordini cattolici sono scesi in Inghilterra del 10% nel solo 2006, a 6.250, di cui 1.320 monaci. Nel 2007 solo 13 uomini e 17 donne sono divenuti novizi. La congregazione benedettina in senso stretto, la più copiosa, contava, secondo il Benedictine Yearbook 2009, che registra lo stato dell'arte dell'ordine nome per nome, 333 monaci nel 2005, su un totale mondiale di 7.827, crollato a sua volta da 8.401 nel 2000. La Confederazione degli Ordini di Regola Benedettina, Cistercensi, Olivetani, Subiaco, eccetera, raggiungeva in Inghilterra e Galles a malapena il migliaio nel 2006. Le cose vanno ancor peggio in casa degli anglicani, dove la già esigua schiera di un migliaio, suore comprese, nel 2000 si è ridotta a 605. Gli stage di assaggio della vita monastica sono dunque diventati un tratto costante in conventi come Bishop Eaton a Liverpool, Downside presso Bath, Worth Abbey a Crowley, nell'East Sussex, e per l'appunto l'ammiraglia Ampleforth. Qui l'alloggio costa 30 sterline al giorno, compreso un ricco breakfast inglese, a cui si aggiungono 9 sterline per pasto. Pochi giungono però per meditare in proprio. L'attrattiva principale è il programma pastorale, affidato a mezza dozzina di monaci, che intrattengono gruppi su temi programmati nell'arco dell'intero anno, da letteratura e spiritualità alla Lectio Divina, che insegna a leggere i testi sacri con lo spirito degli antichi religiosi, passando per l'analisi della differenza tra le preghiere di laici e religiosi, le preghiere sulla spiaggia per apprezzare la natura del mare del nord, una scampagnata sulle tracce dei santi nordici inglesi, le meditazioni su San Paolo, in occasione del bimillenario della sua nascita. Il programma più ardito è senz'altro quello di un giorno di sperimentazione delle tecniche del Tai Chi applicate alla meditazione cristiana, mentre il più mondano, dal nome In Vino Veritas, propone un corso di 2 giorni sui più importanti vitigni, oltre a riflessioni su vino e vigne nelle scritture. Le avvertenze recitano che non è richiesta alcuna esperienza in materia. È noto che i benedettini, di tanto in tanto, un buon bicchiere di vino se lo concedono. Chissà che alla fine il corso non si riveli l'arma decisiva per far breccia sulle ultime esitazioni dei potenziali novizi. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Marco Niada dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Il Festival di Sanremo, che si è appena concluso, verrà ricordato anche per le polemiche sulla canzone di Povia, sollevate mesi fa, quando del brano si conosceva solo il titolo, Luca era gay. Ma alla fine, che importanza ha se Luca non è più gay? Scrive Massimiliano Parente sulle pagine di Libero. Qui le strade sono addobbate a festoni luminosi e stelline. Sanremo è Sanremo. E il Natale è il Natale. Ma a Sanremo è sempre Natale, almeno finché non passa Sanremo. Entro in un caffè di fronte al casinò, vedo Malgioglio che è Malgioglio. Con il ciuffo bianco, mentre dice «Amore» a un cameraman, riesco subito dal caffè. Tuttavia, al contrario dell'atmosfera esterna, nel teatro si teatralizza il festival più finemente performativo, ansiogeno e goffo degli ultimi 59 anni. Bonolis mi fa tenerezza. Io che lo guardavo ai tempi di Bim Bum Bam, quando era un bravo ragazzo e intratteneva i bambini prima che facessero «Oh». Non che sia cambiato molto da Bim Bum Bam, a parte il contesto e i cachet e l'adrenalina, essendosi abbassata l'età media culturale supposta del pubblico supposto. Pertanto, fin dalla prima serata, si assiste all'omosessualità spiegata ai 6enni o alle suore. E come si dice, si dovrebbe, non si è detto, «peggio la toppa del buco». Peggio Benigni e Grillini di Povia e del suo Luca, che non è più gay, perché Povia è solo Povia, mentre gli altri volevano porre rimedio. Benigni che dice «una persona che ama un'altra persona, gli omosessuali amano, l'amore è divino», e Grillini che alla fine è soddisfatto perché ha detto tutto Benigni, e cita la lettera di un altro uomo che ha avuto un compagno per 33 anni, e dunque è amore, senza rendersi conto di essere l'altra faccia della stessa medaglina di Povia. Così, a fronte di una canzone che canta beotamente la guarigione di un ragazzo gay, si celebra il moralismo disincarnato di giustificare l'omosessualità con i sentimenti. E gli arcigay sono felici e contenti. Cazzi loro, però mi incazzo io per loro. Perché se ne evince che se per un eterosessuale c'è sesso e amore e sesso senza amore, un omosessuale o ama o ha grillini per la testa e tertium non datur. Per il resto, Bonolis ha comunque tutta la mia solidarietà etero e omosessuale. Non deve essere facile, con il fucile dell'Auditel puntato alla tempia. Ti fanno passare la voglia di guardarlo. Meno male che mi sono portato la PlayStation, meno male che sono in attesa di una telefonata di Dolce Nera. Perché che palle, rilassatevi. Ci sono principi attivi utili come il bromazepam. Bonolis non ha ancora iniziato e non si fa che ripetere in diretta nel caso in cui vada male, se va male il festival, dovesse andar male, se gli ascolti non dovessero esserci. E non a cena, di nascosto, nelle catacombe, in apposite sale non intercettate dalla magistratura, ma proprio lì, all'Ariston, con la paura dietro ogni parola e sorriso. E hanno messo il gobbo così in alto che Paolo ha sempre gli occhi rivolti al cielo. Sembra San Paolo. In effetti l'hanno fatta così lunga, anche con questa storia dei compensi, che uno ascolta Benigni che ridice per l'ennesima volta e per l'ennesimo anno «Berlusconi!» e tutti ridono. Dice «Silvio!» e tutti ridono. E allora uno pensa che i soldi, dopo 20 anni di Silvio, dovrebbero darli a Silvio, altro che ridare i diritti di Benigni a Benigni. E poi non si è mai neppure vista una tale ostentazione di fatica enunciata, non trattenuta, per mettere le mani avanti, ma soprattutto dietro, prima sul caso Povia, poi sul dietro le quinte, che c'è ma non si vede. Quando per esempio Bonolis dichiara più volte in onda quante migliaia e migliaia di persone stanno lavorando per voi. Non funziona un microfono e dovete sapere che ci sono migliaia e migliaia di jack e dovete rendervi conto di quante persone hanno lavorato per costruire tutto questo. E ci lavoro da un anno. Non poteva dire migliaia e migliaia di anni, ma ce l'aveva lì sulla punta della lingua. Vogliono inocularti il senso di colpa nel caso in cui dovesse farti schifo il risultato. Infatti Del Noce gli fa eco con i suoi «o la va o la spacca, è un caso di vita o di morte», minacciando il pubblico che, se non andasse e la spaccasse, tra 2 anni il festival verrà declassato a un normale programma di intrattenimento serale. Perché cos'altro dovrebbe essere? Un programma di approfondimento? Un programma culturale? A questo serviva il collegamento con le Nazioni Unite? A questo servono i modelli, le conigliette di Playboy, la ragazza del lago e la sessualità spiegata ai bambini? Per questo Povia viene discusso come se fosse Simone de Beauvoir e Benigni gli risponde come se fosse Jean-Paul Sartre. Un sillogismo che in Italia non fa una piega, è la piega stessa. Se Sanremo va male, non si declassa Del Noce. Del Noce declassa Sanremo e punisce il pubblico pagante. Ecco perché si chiama Mamma Rai. Perché Sanremo è Sanremo e la mamma è sempre la mamma. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Massimiliano Parente, Ma Luca non è più gay e chi se ne frega, da Libero del 19 febbraio. La recente escalation di stupri ha diviso la politica, scrive Paolo Guzzanti su Panorama. L'ondata di stupri cresce e crescono anche i casi accertati di pedofilia. Il più mostruoso? Bambini di età inferiore a un anno offerti con le mani legate dietro la nuca. Il caso più italiano? La madre napoletana che faceva prostituire le figlie fin dall'età di 4 anni, facendole preventivamente violentare dai fratelli incaricati di insegnar loro i dettagli del mestiere. E poi i casi più comuni. Ragazzine, bambine, ragazze e persino una donna cieca di 80 anni, stuprate da romeni o nordafricani nei parchi, come quello romano della Caffarella o nelle lande periferiche delle città. L'ottuagenaria cieca era incapace di gridare e il trentenne violentatore è stato scoperto per caso mentre si agitava nel suo letto. E poi ancora raid di gente che in mancanza di giustizia certa cerca di farsi giustizia con le proprie mani, reazioni previste e prevedibili che accendono il falso dibattito sulla malvagità dei romeni, che ricorda quello che nel 600 appassionò i teologi chiamati a decidere se i selvaggi delle Americhe avessero o non avessero un'anima. Sono i romeni esseri umani come gli altri o mostri? Alla domanda, non del tutto illegittima, Bucarest protesta, ma va ricordato che il primo insediamento di italiani negli Stati Uniti nella seconda metà dell'Ottocento non fu a Little Italy, bensì a New Orleans, dove calabresi e siciliani furono arruolati al posto dei lavoratori neri liberati dalla schiavitù, perché costavano di meno. Però gli italiani stupravano e rapinavano, sicché la folla ne linciò una ventina impiccandoli ai rami più alti. La storia si ripete con monotonia. La destra e la sinistra si dividono secondo pregiudizi noti, la sinistra nega l'evidenza e la destra di governo cerca di contenere la rabbia popolare che ricorrerebbe volentieri alla legge di Lynch. La sola diagnosi certa è che quel che accade in Italia non accade, nella stessa misura, negli altri paesi europei, perché le forze della sicurezza e la giustizia non funzionano e perché la criminalità organizzata sostituisce lo Stato nelle regioni del Sud, rendendo lo Stato dimezzato e acefalo, sommerso dalla retorica e incapace di proteggere la società sotto attacco. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Guzzanti, Storie di ordinaria violenza e pregiudizio, da Panorama numero 2234 del 26 febbraio.